Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. Si era fatto tardi. Nella città e altrove, in tutto il mondo, era l'ora che la gente rientra a casa. Anche qui, in questo paese della notte, rientrava qualcuno, avanzando a tentoni dal fondo del corridoio. Straccioni, mendicanti, suonatori, uomini e donne senza volto. In certe case si cucinava qualche cosa. Un fumo, che aveva la densità di un corpo azzurro, scappava da qualche porta. Si intravedevano nell'interno fiamme gialle, volti neri di gente accoccolata tenendo sulle ginocchia una scodella. In altre stanze, invece, tutto era fermo, come se la vita si fosse pietrificata. Uomini ancora in letto si rigiravano sotto grigie coperte, donne erano intente a pettinarsi, con l'incantata lentezza di chi non conosce quale sarà, dopo, l'altra occupazione della sua giornata. Tutto il terraneo e il primo piano a cui risalimmo erano in queste condizioni di inerzia sconsolata. Non si aspettava nulla e nessuno. Al secondo e terzo piano, mi spiegò Lalo Savio, la vita assumeva invece un aspetto umano. Riprendeva un ritmo che poteva assomigliare in qualche modo a quello di una normale città. Le donne la mattina rifacevano i letti, spazzavano, spolveravano, pettinavano se stesse e i bambini, molti dei quali erano avviati, con veri grembiulini neri e cravatte azzurre, a una scuola di suore. Parte degli uomini avevano un'occupazione. Avevano acquistato delle radio e fatto costruire quelle tubature per lo scarico dei rifiuti, che, sistemate al terzo piano, affliggevano col loro fetore e macchiavano le finestre degli abitanti dei piani inferiori. Mentre salivamo quassù, godendo di una certa luce del giorno che cominciava a piovere dalla scala e respirando un'aria meno opprimente, fummo raggiunte da un gruppo di ragazzi e bambine in grembiule nero, con i fiocchetti e cartelle, che tornavano dalla scuola. Una radio da una porta aperta trasmetteva musica di canzoni. Sentimmo una chiara voce maschile, quella dell'annunciatore di Radio Roma, scandire «E ora, cari ascoltatori!» Poco dopo la voce di un cantante modulava le prime note di «Passione». Come in tutta Napoli, anche qui il tono della stazione era tenuto altissimo, un po' per l'avidità del rumore, caratteristica di questa popolazione, ma anche per il piacere tutto borghese di poter dimostrare ai vicini che si è in condizioni agiate e ci si può permettere il lusso di un apparecchio potente. Non entrammo in nessuna di queste case. Si trattava di famiglie abbastanza normali, quelle stesse che si incontrano agli ultimi piani delle vecchie case cittadine. Molte finestre erano fornite di vetri e in loro mancanza pendevano dal soffitto lampade elettriche di una forza senz'altro superiore a quella di cui beneficiavano i primi piani. Qui ci si vedeva nitidamente e, mi disse Lalo Savio, al terzo era addirittura uno sfolgorio. C'erano lampade anche vicino ai letti, che avevano le loro lenzuola, esistevano armadi con regolari ganci per i vestiti, si vedevano tavoli lucidi con centrini, fiori finti, ritratti e, sotto l'orologio a muro, qualche divano. Alcuni degli uomini della famiglia avevano un lavoro ben retribuito. Erano impiegati, fattorini di banca o commessi, buona gente ancora dignitosa e tranquilla, che, perduta la casa in seguito a un crollo o uno sfratto e non riuscendo subito a trovarne un'altra, si era adattata a vivere ai granili, senza per questo rinunciare al suo decoro, frutto di un'onorata tradizione. Evitavano qualsiasi contatto con i cittadini dei primi piani, mostrando per la loro abiezione una severità non priva di compassione e mista di compiacenza per la propria floridezza, che attribuivano a una vita virtuosa e sulla cui stabilità non avevano alcun dubbio. Per una circostanza assolutamente casuale, un motivo fortuito, imprevisto e che sarebbe altrettanto presto cessato, come una disoccupazione, una malattia, accadeva a volte che qualcuno di questi buoni cittadini fosse costretto a cedere il suo alloggio, contro piccola ceditura, a un capofamiglia più fortunato, e si adattasse a sistemarsi con i suoi a un piano inferiore, sicurissimo di risalire entro breve tempo al terzo o addirittura di lasciare i granili. Quell'uomo, quella famiglia, non ritornavano mai più alla superficie del pozzo, e neppure ne uscivano, benché in un primo tempo fosse parsa cosa facile. I bambini, una volta limpidi e sereni, in quel buio si coprivano di insetti e i loro volti diventavano sempre più gravi e pallidi. Le ragazze si mettevano con uomini sposati, gli uomini si ammalavano. Non risaliva più nessuno da giù. Non era facile risalire quei gradini in apparenza piani e comodissimi. C'era qualcosa che chiamava da giù, e chi cominciava a scendere era perduto, ma non se ne accorgeva che alla fine. «Signora mia, scusate!» stava dicendo una specie di maitresse in vestaglia, ritta davanti alla porta di una di quelle case, con una tazzina in mano e un sorriso negli occhi bluastri. «Mi servirebbe qualche grano di sale, ho calato in questo momento la pasta e mi sono accorta che non ne tenevamo!» Due ventenni rincasavano parlando della partita. Un vecchio pensionato, seduto su una sedia davanti alla propria porta, leggeva il Mattino. Si sentivano delle voci limpide di ragazzi strillare intorno ad una zuppa. In un'altra casa, due ragazze, lunghe come cavalle, con delle magliette azzurre, i visi incipriati, erano intente a leggere un settimanale illustrato davanti alla radio. «Più forte una catena!» gridava la radio, come in tutti i quartieri della Napoli monarchica e traffichina la domenica verso l'una, quando si effonde intorno per le stanze rassettate e lustre, piene di parenti e di gioventù che ritorna dalla messa, l'antico e familiare odore di salsa e carne del ragù. Eravamo, o almeno lo ero io, in quello stato d'animo tra l'angoscia e la consolazione di chi, uscito da una casa di pena, ritrova la luce, l'aria e in qualche modo la dolce libertà umana, un certo livello di vita, allorché un rumore confuso e dolente, di cui non si avvertiva con chiarezza il significato, oscillando tra il dolore e una sorta di straziato sollievo, attrasse la nostra attenzione. Questo suono, come di passi e di pianto, proveniva da uno dei piani inferiori, saliva dalle scale profonde alle quali in questo frattempo ci eravamo riavvicinate. Non bastava la gaia voce dell'annunciatore di Radio Roma a soffocarlo, né l'atmosfera quasi serena del secondo piano. Lalo Savio, dopo un attimo di riflessione, aveva cominciato rapidamente a scendere le scale senza più badarmi e io la seguì. Al primo piano, ritornando la notte, quei rumori e quelle voci furono più chiari. Passi di uomini e donne, neppure molti, ma certo un buon numero, che camminavano portando qualcosa, e voci tranquille che rimpiangevano o consolavano. Ci passò davanti la donna col viso coperto da una fungaia. Parlava adagio con una donna grassa e diceva: «Mo fai orna perché la creatura, mo verdia!» Al che l'altra sentiva pacatamente asciugandosi l'occhio con una pezza. Altra gente era affacciata, immobile alle porte del corridoio, commentando in un suo gergo l'accaduto. «Pazianna e fornuta!» Al piano terra finalmente vedemmo di che si trattava. Portavano via, certo, Antonio Esposito, di 7 anni, soprannominato Scarpatella, deceduto mezz'ora prima per cause sconosciute mentre giocava con alcuni coetanei. All'improvviso si era portato la mano al cuore e si era seduto in un angolo. Adesso lo portavano all'obitorio per gli accertamenti e profittavano genitori e amici per improvvisare un funerale. Ed era, come si può capire, il funerale più semplice che avessi mai veduto. Il morto non era neppure nella cassa, ma in braccio alla madre, una cosa gialla tra la volpe e il bidone delle immondizie. Il bambino era per metà avvolto in una coperta, di cui pendevano i lembi ora qua e ora là insieme alle braccia sottili. Era un biondo con la faccia fine, le labbra semiaperte in un'espressione meravigliata, che neppure la benda intorno alle mascelle era riuscita a frenare. La sua calma e la sua gioia, caratteristiche di quelli che hanno lasciato la vita, erano come sottolineate da un grumo di catarro, fermo sotto la narice destra, che faceva pensare a un abbandono e un silenzio che nessuno avrebbe più turbato. Dietro veniva il padre, portando, chissà perché, in seguito a quale confusione della sua mente davanti alla sciagura improvvisa, le scarpe del ragazzo. Parlava col prete che gli veniva dappresso, un uomo obeso, apatico, sforzandosi a una calma solo apparente, a giudicare dal modo con cui si stringeva al collo sul petto nudo i baveri della giacca. Dio li aveva castigati. Anche l'anno prima ne era morto uno così. E dopo la disgrazia di Vincenzina non avevano trovato più pace. Questo sembrava sano, in buona salute. Dietro i genitori seguivano 5 o 6 giovanotti dagli sguardi ebeti, tutti figli della volpe e fratelli del morto, affiancati da un gruppo di donnette che pregavano ad alta voce. Ed era stato questo, insieme ai falsi singhiozzi di qualcuno dei fratelli, il rumore assurdo che mi aveva colpita. Come assurda era la compostezza dell'uomo e della donna in un paese come Napoli, dove si recita continuamente. Tutte le porte, come al primo piano, adesso erano aperte, senza però una parola, un commento pietoso come usa nella plebe. Vedemmo anche il maestro Cutolo, con i suoi bambini stretti al fianco e un'aria estasiata. «Ah, una bella creatura!» esclamò vedendoci. «Dio, nella sua bontà infinita, ha voluto sottrarlo a tutte le occasioni di male di questa vita, chiamandolo a sé. Lodiamo la sua infinita sapienza!» Ora quel birichino di scarpatella si sta arrampicando sugli alberi del cielo. Non aveva finito di parlare che suonò sotto quelle nere volte un grido mozzo, strascicato, orribile, come se la persona che lo emetteva non riuscisse a liberarsene. Nello stesso tempo avanzò, correndo dall'imboccatura del corridoio, dove appariva un po' di luce, una giovanetta di forse 20 anni, lustra e adorna di cose false. Strappandosi ai 2 uomini che l'accompagnavano e che apparivano esitanti, corse incontro al gruppo e per un momento si confuse con esso. Il funerale si fermò, come le processioni quando un devoto vuole appuntare un'offerta in denaro sulla veste della Madonna. «Care, voi pazziata, voi non tenete cora!» Non sentimmo altro. «Vattenna!» gridò dopo un momento una voce durissima. Era la madre che tentava, dopo il primo momento di stupore, di strappare il morto dall'abbraccio della ragazza. Ma questa, come una demente, gli si era aggrappata, quasi cadendo per debolezza o altro sulle ginocchia, cercava di tirarlo a sé e sfuggendole il viso di lui che la madre cercava coprire, gli abbracciava ora le nude, sporche gambe, i piedi scalzi. «Svergognata! Questa è una svergognata!» diceva ora il padre al prete. «Se ne andò di casa senza più ricordarsi di noi. Le domandammo soccorso nella nostra necessità e fece rispondere che non teneva più genitori e ora si commuove per il suo povero fratello. Scarpetè!» chiamava intanto con un grido dove tenerezza e spavento erano una sola cosa la giovane Vincenzina. «Non pazzià, scetata. Tu mi chiamava mattina e sera, pur un suonna. Io non tengo a nessuna. Cora!» E qui un gran pianto. Ora la volpe guardava la maggiore delle sue figlie con un lampo, un sorriso indefinibile, tra sciocco e amaro negli occhi brillanti. «Le correva sempre appriesa», spiegava in giro. «Toc toc, con le sue scarpatelle. Addostà, spiava quando se ne fuiuta». «Abbiate misericordia», disse il prete con indifferenza. «Iddio ne avrà per il vostro povero Antonio, che a quest'ora è davanti a lui con i suoi piccoli peccati». E si curvò a mormorare qualcosa all'orecchio della giovane, che subito alzò il viso, con un'espressione incantata mentre continuava a stringere al petto il rigido involto. Depose questo con un bacio in braccio alla donna e cercò, tutta rossa in volto ma senza più lacrime, nella borsetta di pelle lucida che le era scivolata a terra, ne tolse un grande biglietto rosa e lo porse alla madre. Questa sorrise e anche il padre, intenerito, abbassava il capo. Qualcuno aggiustava la benda al bambino, la cui bocca si era allargata. Poi il corteo, con le meste preghiere che ci avevano tanto impressionate, riprese il suo viaggio tranquillo e apparentemente doloroso verso l'arco grigio di luce che annunciava l'uscita. Dopo questo, non seppi e non vidi più nulla di preciso. Iaia Forte ha letto Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.